stasera, amici miei, andrò da lei. Stasera le dirò se vuol tornare insieme a me, perché se lei non c'è io non esisto più. Ci vuole qualcuno vicino per vivere, ed io vivo per lei. E se ritornerò e vorrò piangere, vi prego amici miei di non parlare. Prendetemi tra voi e sorridetemi, perché un uomo non può piangere d'amore. Ed piangere, vi prego amici miei di non parlare. Prendetemi tra voi e sorridetemi, perché un uomo non può piangere d'amore. Piangere ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. In un mondo così triste, per chi è solo, aspetterò tutti i giorni che vuoi, ma ti prego, torna a casa, torna da me. Ti prego di riprovare quella gioia che ti lega a me. T'aspetterò quando vorrai, ma ti prego, torna a casa. Amor. strada della mia vita. Cerco l'amore di una donna e quella donna Giudy sei tu, Giudy sei tu, Giudy sei tu. Negli occhi tuoi c'è qualche cosa che non so cosa sia, ma per me vuol dire amore, vuol dire amore, vuol dire amore. Ora lo sai, dimmi ti amo. Me lo puoi dire con un bacio. Grazie a te, piccola mia, oggi sono tanto felice. Ora che sei qui con me, vicino a me. Con tutti voi che lei ritornerà, son sicuro che domani la vedrete con me. Non ritornerà, si ritornerà, non ritornerà, lei ritornerà, non ritornerà, sono certo e poi mi vuole tanto bene, lei ritornerà. Ogni giorno lei fa sempre un po' così, oggi piange, poi domani è di nuovo con me. Questa volta no, date retta a me. Questa volta no, vi sbagliate voi. Questa volta no, ci ha provato già, è andata con un altro ma è tornata con me. Vediamo domani, ciao, tutti a casa di Joe. Balleremo fino a tardi, ci sarà pure lei. Siamo tutti qui, lei arriverà, lei non ci vedrà, fra poco sarà qui. Va bene sia così, però vi giuro presto me la pagherà. Oh, me la pagherà, sì sì sì, me la pagherà. Quando essa accorgerà di me, soffrirà. Lei aspetta me. Oh, lei. Lei aspetta me, lei vuol bene a me, e le ho detto che ritornerò, ritornerò, ma sono qui, ma sono qui, io sono qui e bacio. quella mano potrai fermarmi mai. Tu mi dici cose che non potrò scordare mai, ma ti lascerò, ora dimmi ciao. Non tentarmi ancora, non baciarmi più, non tentarmi ancora, non baciarmi più. Lei aspetta me a fiducia in me. Lei non lo sa che sono qui, che sono qui accanto a te, accanto a te. E tu non vuoi lasciarmi andare. Tu sei più bella ma non potrai fermarmi mai. Tu mi dici cose che non potrò scordare mai. Ma ti lascerò, ora dimmi ciao. Non tentarmi ancora, non baciarmi più, non tentarmi ancora, non baciarmi più. Lei aspetta me, lei vuol bene a me. Lei merita me. Tu non mi fermerai, lei aspetta me, aspetta me. Amor, non farmi piangere più. Non mi far soffrire perché, nei miei sogni ci sei tu, tu che non puoi tornare da me, no no non farmi piangere più, io morirò solo per te, il mondo è triste e sai perché. Perché tu non sei qui con me. Io penso a te la notte e il dì, ed al tuo amore che non torna più e se ne va, lontano va, perché mi manchi solo tu. Farmi piangere più, no, non mi far soffrire perché, nei miei sogni ci sei tu, tu che non puoi tornare da me, tu che non puoi tornare da me. Perché? Non mi far soffrire perché? E nei miei sogni ci sei tu. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Piano, pianino, tu vuoi baciarmi? Dalla tua bocca lo sento dire, se il desiderio morire bambina cara, ti bacerò piano, pianino, ti sfiorò il viso sulla tua bocca, nasce un sorriso e poi ti bacio piano, pianino, piano, pianino, nasce l'amore. Ti bacio piano, pianino, piano, pianino, nasce l'amore, oh, nasce l'amore, nasce l'amore. Mai piantato ed ora ridi di me, perciò quei lunghi tuoi baci ed oggi carezze che davi a me, no, no, no, no, più non avrò. Amo, ma sento che pensando a te, per cominciare la mia vita cambierò, saprò scordare ogni ricordo di te, amo. Senza motivo mai piantato ed ora ridi di me, ma se da me ritornerai, no, no, no, ti vorrò, perché l'amor dai retta a me non fa per te. Saprò scordare ogni ricordo di te, amo. Senza motivo mai piantato ed ora ridi di me, ma se da me per te. Io sto tornando a casa, ci rivedremo tra un po', più presto che potrò, non potrei restare senza te. Io ti amo, io Io sto tornando da te. Io sto tornando a casa. Va bene cara se vuoi. Telefonare ti potrò. La tua voce sentir potrò. Io verrò. Io sto tornando da te. Sta tranquilla amore mio. Quando arriverò. Incontro a te io correrò. Sogno di star con te. Io sto tornando da te. Io sto tornando, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Devi fidarti di me. Puoi star sicura che verrò. E se non verrò morirò. Io sto tornando a casa. Ci rivedremo tra un po'. Più presto che potrò. Non potrei star senza te. Io ti amo. Io sto tornando da te. Io sto tornando a casa. Va bene cara se vuoi. Telefonare ti potrò, la tua voce sentir potrò. Io sto tornando da te, io sto tornando a casa. Io sto tornando da te, io sto tornando a casa. Io sto tornando da te. Non andare via, non mi dire addio. Io senza di te non sarò più io. Resta insieme a me, non mi dire addio. Lui non t'amerà come t'amo io. Ti chiedo il nome dell'amore che un giorno hai dato a me. A me. A me che non capivo come sei, ti chiedo di restare, anche se adesso tu non sai che non mi lascerai, le cose che avrai da lui saranno mai quelle che tu vuoi, quelle che tu vuoi. Resta insieme a me. Non andare via, non mi dire addio. Io senza di te non sarò più io. Resta insieme a me. Non mi dire addio. Lui non t'amerà come t'amo io. Se adesso tu non sai che non mi lascerai, le cose che avrai da lui non saranno mai quelle che tu vuoi, quelle che tu vuoi. Resta insieme a me. Addio, io senza di te non sarò più io. Resta insieme a me, non mi dire addio. Lui non t'amerà come t'amo io. Non andare via, Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Un amore vero, non può finire mai. Se tu mi crederai, tutto il mio soffrire finirà. Nella vita sai che si vuol bene per una volta sola. Non puoi andartene, so che soffriresti come me. Perché sei nata per amare me, io vivo per amare te. Amore mio, un amore vero non può finire mai. Amore, baciami, ed il mio soffrire finirà. Cosa di nessuna importanza per te, solo ti amo, amore, ti amo, ora che sai, lascia l'altro per me, non ho il diritto d'importunarti, ma di amarti proibirmi non puoi. Nulla pretendo, però non mi arrendo, vivo aspettando un'ora per noi. 200, chissà, quell'ora che aspetto con ansia verrà. Non aver fretta, mio cuor, aspettando l'amore. Ti voglio dire solo una cosa, di nessuna importanza per te. Ti amo, amore, ti amo, ora che sai, lascia l'altro per me, ora che sai, lascia l'altro per me.